Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io ho definito questo decreto legge la madre di tutte le riforme, che lo ritengo indispensabile insieme a tutto il governo per modernizzare l'Italia, tornare a far correre il paese, ed è per questo che in queste ore a livello governativo, col coinvolgimento delle forze di maggioranza, ci stiamo confrontando in maniera costruttiva per trovare le soluzioni migliori. Conte l'ha detto, è la madre di tutte le riforme, questo decreto semplificazioni che è al vaglio appunto del Parlamento. Oggi ha fatto il suo intervento alla Camera per parlare appunto delle misure che il governo italiano sta approntando per contrastare la grave crisi economica provocata dal coronavirus, in particolare il decreto semplificazioni, ma poi ha parlato anche del decreto rilancio, la questione del MES che ancora, come sapete, divide i due principali partiti della maggioranza, quindi PD e Movimento 5 Stelle, e poi insomma approfondiremo ulteriormente l'argomento, perché poi ritorna a fare capolino la necessità di riprendere in mano il patto di stabilità, e quindi in un momento già difficile per l'economia italiana qui si parla anche di patto di stabilità che era stato sospeso appunto per l'emergenza coronavirus. Vedremo, ne parleremo in modo approfondito. Poi torneremo sul caso Regeni, perché oggi c'è stato il vertice di un'ora in videoconferenza tra i magistrati italiani e quelli egiziani. I genitori di Regeni parlano di un flop, di un incontro fallimentare, così effettivamente è sembrato. Ne parlerò con il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sull'omicidio di Giulio Regeni, per capire se appunto c'è un minimo spiraglio con il governo egiziano, che praticamente insomma ci prende per i fondelli da 4 anni e mezzo, in particolare la famiglia, ma anche l'Italia stessa, che anche per una questione di dignità propria insomma non può continuare a farsi trattare in questo modo rispetto a questo barbaro omicidio di un cittadino italiano. Poi con gli Stati Uniti ci collegheremo per parlare probabilmente il 4 luglio, l'Independence Day per gli Stati Uniti, grande festa, forse più nero della storia della vita di Trump, in calo, a picco nei sondaggi per come sta gestendo ormai una pandemia fuori controllo, per come anche ha gestito le manifestazioni antirazziali. Insomma, sicuramente non è un momento particolarmente felice per Trump, tanto è vero che addirittura degli ex dirigenti del governo di George Bush starebbero raccogliendo fondi per il suo antagonista democratico Joe Biden. Insomma, tantissime cose, come sapete, da approfondire tra poco con gli ospiti, però prima, come sempre, la sintesi della giornata. Se volete commentare, ormai lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per voi lì giorno e notte, oppure i WhatsApp al 349 238 6666. Lo ripeto il numero, 349 238 6666. Partiamo con la sintesi della giornata. I dati sul coronavirus in Italia: crescono leggermente i contagi, i nuovi casi sono 182, i decessi 21, e l'OMS sottolinea: Italia e Spagna hanno ribaltato una situazione spaventosa. Il coronavirus nel mondo: i casi di contagio superano i 10 milioni e mezzo, gli Stati Uniti sono il paese che conta di gran lunga il maggior numero di casi confermati, sono attorno a 2,6 milioni, mentre i decessi in America sono ad oggi oltre 127 mila. Intanto la popolarità di Trump a picco, il 59% degli americani disapprova il suo operato. Conte riferisce in Parlamento: il decreto semplificazioni è la madre di tutte le riforme, dice, e rimarca: nessun legame tra MES, politica di bilancio e tasse, ipotesi sgravio dell'IVA per chi usa la moneta elettronica. Caso Regeni, i PM romani sollecitano in un vertice di un'ora l'Egitto, dicono subito risposte sulla rogatoria del 2019. I genitori di Giulio parlano di incontro fallimentare e chiedono di richiamare l'ambasciatore dal Cairo. Per parlarne, ospite Effetto Notte, il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sull'omicidio Regeni, Palazzotto. Calcio, Serie A maschile in campo, attese conferme per Milan Inter, lotta della salvezza tra Lecce e Sampdoria. Partiamo quindi, come sempre, dai dati sull'andamento del coronavirus in Italia. Sono 187 oggi i nuovi contagiati, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 142. Il numero totale dei casi sale così a 240.760. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 21, in lieve calo rispetto alle 23 di ieri. Questi i dati aggiornati dal Ministero della Salute. Restano le polemiche sulla tempistica della presenza del Covid in Italia. Sono 187 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, il 60% in Lombardia. Le vittime sono invece 21 contro le 23 di martedì, gli attualmente positivi 15.255. A Falciano del Massico, in provincia di Caserta, oggi è stata chiusa un'azienda agricola dove sono risultati contagiati 27 lavoratori collegati al focolaio di Mondragone, che in tutto conta 79 positivi. Nessuno dei 3.000 casi di polmonite registrati tra ottobre e gennaio in Veneto ha evidenziato la presenza del Covid, fa sapere intanto Andrea Crisanti, professore di microbiologia a Padova. Il docente, che è anche consulente della Procura di Bergamo, aggiunge poi che potrebbero non avere una relazione con il Covid i 110 casi di polmonite non classificabili registrati tra novembre e gennaio all'ospedale di Alzano, uno dei principali focolai lombardi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E proprio sul caso di Alzano Lombardo sentiamo proprio Crisanti, ieri che è stato qui ospite di Effetto Notte, il professor Crisanti, sui casi di, oltre a vari argomenti, ma che cosa ha detto sui casi delle polmoniti anomale ad Alzano Lombardo già a novembre. Tutte le polmoniti che non vengono diagnosticate o che si sospetta siano dovute a influenza fa il tampone e vengono analizzate da noi per la presenza del virus di influenza e noi li conserviamo tutti. Quindi noi abbiamo conservato quest'anno circa 5.000 tamponi effettuati a vari pazienti con polmoniti atipiche e negli ultimi mesi li abbiamo ritestati tutti questi pazienti. Devo dire che i primi pazienti con infezione da Covid si incominciano a vedere verso febbraio, quindi io non credo che in Italia sia arrivato così presto. Non crede lei, professore, di già novembre? No, penso che in Italia sia arrivato. Anche i modelli matematici fatti sui dati di Vox da questo punto di vista indicano l'entrata del virus nella comunità di Vox tra la fine della terza e l'inizio della quarta settimana di gennaio. E intanto arriva il plauso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice: in marzo l'Italia e la Spagna erano l'epicentro della pandemia di Covid-19 ed entrambi i paesi hanno ricondotto l'epidemia sotto controllo grazie a una combinazione di leadership, umiltà e partecipazione attiva da parte di ogni membro della società e l'implementazione di un approccio globale. In questo modo, dice l'OMS, Italia e Spagna hanno ribaltato una situazione spaventosa. Passiamo alle misure economiche contro la crisi dovuta al coronavirus. Operazione chiarezza per il presidente del Consiglio Conte, oggi chiamato da maggioranza e opposizione in Parlamento per fare il punto sui principali temi di dibattito: semplificazioni e utilizzo meno delle risorse del Fondo Salva Stati. Il presidente del Consiglio rilancia quindi l'ipotesi del taglio dell'IVA. Una riforma indispensabile per il Paese. Giuseppe Conte definisce così alla Camera il decreto semplificazioni che crea tensioni nella maggioranza. Io ho definito questo decreto legge la madre di tutte le riforme. Io lo ritengo indispensabile insieme a tutto il governo per modernizzare l'Italia, tornare a far correre il Paese. Conte, durante il question time, risponde anche sul meccanismo europeo di stabilità, altro tema spinoso per i partiti di governo. Non c'è alcun legame, spiega, tra MES e tassazione. Ricordo che non vi è alcuna connessione tra le linee di credito del MES del tipo Pandemic Crisis Support, previste solo per spese sanitarie dirette e indirette legate al Covid-19, e le scelte generali di politica di bilancio dei governi nazionali riguardanti la spesa pubblica e la tassazione. Conte assicura di non temere alcuna risoluzione del Parlamento a luglio sul MES e i tempi per una decisione sono chiari, nessun attendismo. Ora, puntualizza, siamo concentrati sul Recovery Fund. Sul fronte fiscale, il Presidente del Consiglio ribadisce che il taglio dell'IVA è un'ipotesi, ma il Governo non ha ancora deciso, mentre la sforbiciata del cuneo fiscale diventerà strutturale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sull'utilizzo dei fondi del MES c'è pressione da giorni della Germania, che da oggi guida il semestre europeo. Prende le redini dell'Europa con una sana dose di realismo la cancelliera tedesca Merkel, che parlando al Bundestag ammette che sul Fondo Europeo per la Ripresa da 750 miliardi le posizioni dei diversi partner comunitari sono ancora lontane le une dalle altre, per cui i negoziati saranno ancora lunghi in vista del vertice di metà luglio. Sulla fine del periodo di transizione di Brexit, altro grattacapo del semestre tedesco, la cancelliera ha affermato che occorre prepararsi anche a un addio di Londra senza intesa. Wir übernehmen diese Aufgabe in einer Situation Nel video di presentazione del semestre al timone dell'Europa, la Merkel ha riconosciuto che la presidenza tedesca inizia in un periodo inedito per la storia continentale, un momento difficile, aggiungerà poi al Bundestag, che vedrà al centro gli sforzi per contenere e superare la pandemia. In Europa intanto si osserva da vicino il tormentato dibattito italiano sul ricorso ai prestiti del MES. Il fondo salva stati ha condizionalità estremamente leggere e non ci sarebbe lo stigma dei mercati, nemmeno qualora l'Italia fosse il solo paese o uno dei pochi a chiederlo, ha rassicurato Nils Tigesen, presidente dello European Fiscal Board. Proprio il Fiscal Board ha raccomandato oggi alla Commissione Europea di rivedere al più tardi, la prossima primavera, lo stop temporaneo alle regole del patto di stabilità. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questi temi poi torneremo, come dicevo, a parlare tra poco. Intanto, frontiere europee riaperte da oggi per chi arriva dai paesi extra Schengen, cioè paesi dove non c'è appunto la libera circolazione che c'è nei paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Diversi però sono i paletti, aeroporti italiani intanto verso il ritorno alla normalità. Aumentano i voli nei principali aeroporti italiani, effetto del consolidarsi dei movimenti Schengen liberi dal 15 giugno e dell'apertura dal 1 luglio a 15 paesi extra Schengen, tra i quali Marocco, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia. Su Roma Fiumicino i voli sono ora circa 200 al giorno, in crescita rispetto ai 130 di fine giugno, con 20.000 passeggeri al giorno rispetto a 14.000. Crescita simile anche su Milano Malpensa, ma in entrambi i casi rispetto all'era pre-Covid siamo ancora all'80% dei voli in meno e meno 86% nei passeggeri. E secondo la presidente di Federturismo Marina Lalli a 24 mattina, l'Italia non può fare a meno dei turisti americani e russi, due paesi ancora esclusi dai confini aperti. Stiamo parlando di quasi 5 milioni di persone che però spendono oltre 5 miliardi di euro. A questi ci aggiungo anche i russi. È un problema serio. Intanto il Ministero dei Trasporti ha deciso in anticipo la riapertura di Linate dal 13 luglio prossimo, che però, causa lavori e misure anti-Covid, non potrà avere più di 3 voli all'ora. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E da oggi è operativo il bonus vacanze, oltre 72.000 i nuclei familiari che l'hanno già chiesto, un aiuto concreto a famiglie e imprese turistiche, ha detto il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. L'aeroporto di Linate riaprirà dal 13 luglio, a quanto si apprende il Ministero dei Trasporti ha inviato comunicazione all'ENAC, si tratta di un'apertura in anticipo rispetto alla data del 15 luglio, quindi di 2 giorni, prevista nel decreto del Ministero dello scorso 15 giugno. E siamo al caso Regeni, oggi c'è stato un vertice in videoconferenza tra magistrati italiani e egiziani, gli egiziani non hanno fornito una sola risposta, sottolineano i genitori di Giulio, addirittura dicono i genitori si sono permessi di formulare i magistrati egiziani istanze offensive e provocatorie sull'attività di Giulio in Egitto, e per parlarne sarà ospite di questa puntata il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sull'omicidio di Regeni, Erasmo Palazzotto. All'estero, la pandemia, si superano i 10 milioni e mezzo di casi di Covid-19 nel mondo, stando all'ultimo conteggio della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti sono il paese che conta di gran lunga il maggior numero di casi confermati, che si assestano attorno ai 2 milioni e 6, mentre i decessi in America sono ad oggi oltre 127.000. In Brasile si registrano intanto 1,4 milioni di casi, quasi 60.000 decessi. E a proposito di Stati Uniti, del boom di contagi, la popolarità di Trump è in calo, il 59% degli americani disapprova il suo operato. Poi per parlarne ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti. Adesso però ci spostiamo su Hong Kong, manifestazioni e 300 arresti nella giornata in cui è entrata in vigore la contestata legge per la sicurezza nazionale. Con la cerimonia ufficiale nella Golden Bawinia Square, scrivono le agenzie di stampa cinesi, Hong Kong ha celebrato il 23° anniversario del suo ritorno alla sovranità cinese e l'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale. E certo la cerimonia c'è stata, ma mentre migliaia di manifestanti protestavano contro l'introduzione di quella stessa legge che concede al governo invasivi strumenti di contrasto all'opposizione politica. Per contenere i manifestanti, la polizia per la prima volta ha utilizzato anche la bandiera viola, che vale come monito contro coloro che esprimono propositi di secessione o sovversione. Contro la nuova legge, 27 paesi, Gran Bretagna in testa, avevano promosso un rimprovero verbale al Consiglio dei diritti umani dell'ONU di Ginevra, ma hanno fallito, ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Pechino. 53 paesi, al contrario, ci hanno espresso il loro supporto. Ma Londra non demorde. La legge sulla sicurezza nazionale, dice, è una grave violazione agli accordi sull'autonomia dell'ex colonia. Il premier Johnson ha confermato quindi l'intenzione di facilitare il regime dei visti verso gli abitanti di Hong Kong. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Torniamo in Italia. Un cartello della droga che vede assieme ISIS e clan malavitosi. Questo dietro il gigantesco sequestro di 14 tonnellate di anfetamine avvenuto nel porto di Salerno per un valore di oltre 1 miliardo di euro. Per noi in pratica è un riscontro. Un riscontro alle indagini in corso da mesi. Ci spiega così Domenico Napolitano, colonnello della Guardia di Finanza che ha portato al più grande sequestro di anfetamine al mondo. Realizzate in Siria, le pasticche di anfetamina, 84 milioni, erano destinate al mercato europeo e avevano alle spalle non una organizzazione mafiosa ma un vero cartello della droga con accordi tra mafia italiana e ISIS che produce le anfetamine per finanziare il terrorismo. La droga era nascosta molto bene in cilindri di carta per uso industriale e macchinari costruiti in maniera tale da impedire agli scanner di individuarne il contenuto, ma la Guardia di Finanza era appunto in attesa del carico, ancora il colonnello Napolitano. Ed è stato bloccato nel porto di Salerno, quindi poi la Siria oggi è il più grande produttore di pasticche di anfetamina. Si tratta del più grande sequestro a livello mondiale di anfetamine, 14 tonnellate, per un valore sul mercato di superiore a 1 miliardo di euro. Le pasticche riportano il logo del Capagol, sarebbe la droga dell'ISIS, tant'è che pasticche della specie furono rinvenute all'interno del covo dei terroristi dell'attentato di Bataclan nel 2015. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di salute, dal PAP test anche diagnosi precoce del tumore ovarico. Utilizzare il PAP test per diagnosticare i tumori dell'ovaio in fase precoce, i ricercatori dell'Istituto Mario Negri hanno dimostrato che è possibile, con uno studio che ha permesso di identificare nel PAP test di pazienti che in anni successivi avrebbero sviluppato un tumore ovarico tracce della proteina P53 alterata con la stessa mutazione che si ritrova nel tumore. E ora invece lo sport, il calcio, Serie A maschile con il nostro Dario Ricci, un sacco di partite in campo. Orientaci tu, Dario. Ciao, Dario. Buonasera Roberta, 6 le partite in programma oggi, 2 che si stanno concludendo, quelle delle 19:30, 1-1 finora quando siamo all'88esimo di gioco tra Bologna e Cagliari, con Bologna avanti al 48esimo con Barro e Simeone a pareggiare per il Cagliari all'inizio del secondo tempo, avviata un facile successo sul Brescia fanalino di coda insieme alla SPAL, l'Inter che all'87esima a San Siro conduce con un sonoro e roboante 5-0, Young, Sanchez e D'Ambrosio i marcatori nel primo tempo, al 52esimo il gol di Gagliardini, quel Gagliardini che lo ricorderà che ha fallito un gol clamoroso contro il Sassuolo, ha trovato sì, almeno parziale riscatto, all'83esimo la rete di Eriksen. Dalle 21:45 4 gare, Fiorentina Sassuolo, Lecce, Sampdoria, Spal Milan, il Milan che affronta l'altra squadra fanalino di coda, la Spal, e poi Verona-Parma. In questo istante sembra arrivare un'altra marcatura, chiedo un attimo di pazienza perché dovrebbe essere arrivato il sesto gol dell'Inter che sì, ha fatto il 6-0 proprio in questo istante, quindi insomma va avanti veramente di goleata la squadra di Conte, esattamente, partita assolutamente in ghiaccio contro un Brescia ormai rassegnato alla retrocessione. Grazie caro Dario Ricci, ci aggiorniamo poi dopo sul restanti risultati delle altre partite. Adesso giusto gli aggiornamenti per chi sta viaggiando su strade e autostrade e poi torno ratta come la folgore e cominciamo con gli ospiti a approfondire i temi. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di notizie, di approfondimenti con gli ospiti, poi la sintesi della giornata, i vostri commenti attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento oppure i WhatsApp al 349-238-6666. Fra i vari temi, le notizie principali, vi dicevo, parleremo anche del caso Regeni, ci sono degli sviluppi che significa che non c'è nessuno sviluppo, ma poi ne parleremo e sentiremo che cosa ne pensa il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sull'omicidio Regeni. Adesso però ci concentriamo su altro. Io ho definito questo decreto-legge la madre di tutte le riforme, che lo ritengo indispensabile insieme a tutto il governo per modernizzare l'Italia, tornare a far correre il Paese, ed è per questo che in queste ore a livello governativo, col coinvolgimento delle forze di maggioranza, ci stiamo confrontando in maniera costruttiva per trovare le soluzioni migliori. E questo è uno dei passaggi, una delle cose che ha detto oggi il presidente del Consiglio Conte nel suo intervento in Parlamento a proposito delle varie misure economico-finanziarie che il governo sta approntando per contrastare la crisi provocata dal coronavirus, gravissima crisi economica, e poi anche degli strumenti europei. Ne voglio parlare con il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Bentornato, caro Alberto. Buonasera a tutti. Allora, naturalmente ha parlato anche del MES, il famoso, fatidico, famigerato, a seconda dei punti di vista, meccanismo europeo di stabilità, che in questi giorni è il tema che è tornato a dividere i due maggiori partiti della maggioranza, scusate il bisticcio di parole, che sono PD e Movimento 5 Stelle. PD assolutamente favorevole, con Zingaretti che in questi giorni ha detto basta tergiversare, diventano questioni ideologiche, qui dobbiamo avere i soldi da spendere, in particolare per la sanità, perché c'è questa condizione, no, dei fondi del MES da spendere per il sistema sanitario, mentre il Movimento 5 Stelle dall'altra parte continua a dire, insieme anche all'opposizione di centrodestra, fatta però da Salvini e Meloni, che è una trappola nei confronti dell'Italia, che poi ci carichiamo ulteriore debito con chissà quali vincoli, condizioni eccetera eccetera, mentre sempre nel centro destra sappiamo che Forza Italia invece è favorevole. Conte ha detto, tra altre cose, non c'è nessuna connessione tra le linee di credito del MES per le spese sanitarie e le scelte, da una parte, e le scelte generali di politica di bilancio relative alla spesa pubblica e alla tassazione. Traduci, Alberto, questa frase, questo concetto? Sì, naturalmente ha tenuto distinti i due elementi, nel senso che il MES è una cosa che l'Europa ti concede per finanziare programmi per migliorare la sanità in modo diretto o indiretto, e questo è. Il resto, i programmi di riforma fiscale, i programmi di rilancio del paese, tutto il resto sono altro e non possono essere legati o finanziati con quel tipo di fondi. E il tema alla base di questa questione, se gli leviamo, ci togliamo gli occhiali ideologici, è che ci sono sul piatto 37 miliardi a cui noi potremmo avere accesso sostanzialmente a tasso zero, risparmiando grosso modo tra i 6 e gli 800 milioni l'anno in tassi di interesse, rispetto appunto a un approvvigionamento normale attraverso i mercati con emissioni di BTP, e quindi, come dire, non si vede perché questo non debba essere uno strumento che possa avere una sua dignità operativa, posto che deve essere fatto sulla base di un piano d'azione, cioè, ed è lì dove casca l'asino, nel senso che l'Italia la cosa che non sa fare è spendere i soldi che ha, perché, cioè, già dire i abbiamo nostri intenzione di investire, di spenderli in questo e quest'altro. Alberto, mancano i piani strategici. Piani strategici, diciamo poco. E sentiamo allora le due posizioni diverse che sintetizzavo prima all'interno del centrodestra, prima Salini di Forza Italia e poi invece Salvini, il leader della Lega, che dice no al MES. Dire che non si fa il MES ma si fanno titoli di debito pubblico italiano significa non aver capito nulla, perché significa non sapere che un bond italiano, un titolo di debito pubblico italiano oggi costa l'1,8% e mentre il MES costa lo 0,08%, o addirittura può essere emesso a titoli ad interessi negativi se viene rimborsato in 7 anni. Famiglie e imprese hanno bisogno di soldi adesso, soldi veri adesso. L'Europa sta parlando da mesi di quel che sarà forse in futuro. Serve pagare la cassa integrazione adesso, serve che le banche emettano quello che hanno promesso adesso, e dipende solo dal governo italiano. Tutti gli altri paesi europei non stanno aspettando né il MES né l'Europa. La Grecia ha detto no al MES, la Francia ha detto no al MES, la Spagna ha detto no al MES. Perché? Perché è un debito da restituire a condizioni decise fra Bruxelles e Berlino. Io preferisco che il futuro degli italiani sia in mano ai italiani, quindi preferisco le emissioni di buoni del tesoro in modo tale che siano imprenditori e cittadini italiani ad avere in mano il futuro del paese. Chi ha ragione, Alberto Rioli? Vedi che anche all'interno del centrodestra due posizioni differenti. Salini di Forza Italia, che era favorevole, dice i buoni del tesoro in Italia valgono poco, e invece Salvini che punta su questo e dice assolutamente no al MES. Ma secondo me, come dire, ha ragione l'esponente di Forza Italia, perché io credo che quelli siano soldi sacrosanti, utili da impiegare appunto una volta che l'Italia riesca ad avere un piano strategico su come impiegarli, come investirli, come migliorare la sanità. Il resto è una partita politica, Salvini gioca una partita politica e lo sanno benissimo anche i nostri partner in Europa, ci stanno tutti guardando con un'attenzione particolare, perché il MES è una specie di cartina di tornasole su qual è il grado di fiducia che effettivamente l'Italia della politica riveste verso l'Unione Europea, verso Bruxelles, verso la nuova Unione Europea targata von der Leyen. Ed è probabilmente l'antipasto, come dire, politico che si aspettano da noi prima di acconsentire a progetti ancora più faraonici legati al Recovery Fund, che è la prima forma di emissione di Eurobond, partita su cui l'Italia si è giocata la faccia per molti anni, e che adesso non si chiama più Eurobond, ma comunque sono forme di emissioni contemplate all'interno del bilancio dell'Unione e il bilancio settennale. Ebbene, è chiaro che Salvini fa la sua partita politica, perché Salvini è contro l'Europa, addirittura sarebbe contro l'euro, al suo interno ha esponenti che lo dicono chiaramente, quindi se la gioca così. Dall'altra parte invece chi è in maggioranza adesso e chi è al governo dovrebbe fare di tutto per appianare la strada, per garantire ai partner europei che l'Italia ha finalmente ed effettivamente confermato la sua tradizione europeista, che non aveva certo bisogno di inciampi nella storia recente, perché siamo padri fondatori dell'Europa, l'Europa nel nostro DNA da sempre, quindi è abbastanza ridicolo purtroppo arrivare a questo tipo di strettoie della storia, però questo stiamo vivendo. Senti, però Renzi, per quanto riguarda invece il dissidio tra PD e Movimento 5 Stelle, PD favorevole al MES, Movimento 5 Stelle no, dice quella del Movimento 5 Stelle è una posizione ideologica, tanto prima o poi diranno sì. Parlo io, c'è una voce? No, Renzi. È una posizione del tutto ideologica. Facciamo un esempio concreto. Se io sono una famiglia che ha un debito, magari semplicemente perché ha un mutuo, ed ha un mutuo trentennale che costa, poniamo caso, 1.000 euro al mese, quindi una cifra molto importante e impegnativa, lei per 30 anni deve pagare 1.000 euro al mese. Se arriva qualcun altro, in questo caso il MES, che le permette di pagare non più per 30 anni ma per 15 anni, non più 1.000 euro al mese ma 300 euro al mese, se lei dice di no, i casi sono due: o le ha fatto male il caldo, oppure lei ha una visione ideologica. Immaginando che il caldo non faccia male, è evidente che ha una visione ideologica. E poi ecco anche quest'altro passaggio dove dice se vogliono una patrimoniale, 5 Stelle devono passare sul nostro cadavere, prima o poi diranno sì al MES. Se non c'è il MES, i soldi qualcuno li vuole trovare con la patrimoniale. Allora parliamoci chiaro, la patrimoniale non esiste. Chi la volesse fare dovrebbe farla sul nostro cadavere. Il punto fondamentale è che il MES sono 37 miliardi a ottime condizioni che vanno a migliorare le strutture sanitarie e sociosanitarie di questo paese. I 5 Stelle stanno prendendo un po' di tempo, poi diranno di sì, come ovvio e come logico. Quindi vediamo fino a che punto va avanti questa battaglia. Poi tra poco, Alberto, torniamo sulle questioni europee, no? Perché di nuovo fa capolino il patto di stabilità. Però per il momento rispostiamoci di nuovo sulle misure interne. Conte appunto all'inizio ha detto il decreto legge semplificazione è la madre di tutte le riforme. Sentiamo, dice, quali sono le misure. Le misure che saranno introdotte con questo decreto legge sono volte a produrre un'accelerazione, una semplificazione dell'iter di realizzazione delle opere e sono accompagnate, tengo a precisarlo, anche da un rafforzamento dei presidi di legalità. Per quanto riguarda la fase dell'affidamento delle opere, si prevede una semplificazione delle procedure esistenti, consentendo alle stazioni appaltanti anche di affidare i contratti in modo più semplice, più rapido, per questo periodo transitorio che abbiamo individuato. E poi parla anche di riforma del fisco, Conte. Sentiamo anche quest'altro passaggio. Questo governo sta lavorando ad un'ampia riforma della tassazione diretta e indiretta, finalizzata a definire e disegnare un fisco equo, semplice e trasparente per i cittadini. È una riforma che non si può attuare nel giro di pochi giorni o poche settimane. Ovviamente l'obiettivo non è aumentare ma ridurre la pressione fiscale sui ceti medi, sulle famiglie con figli e accelerare la transizione del sistema economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale. Che te ne pare per ora, Alberto, di queste misure? Poi ha parlato anche del taglio del cuneo fiscale, no? Del fatto che dovrebbe arrivare, almeno per i lavoratori dipendenti, fino a un certo reddito, dovrebbe arrivare qualche soldo in più, insomma dagli 80 euro di Renzi dovrebbero diventare circa 100, no? Sì, sono altrettanti capitoli che ciascuno dei quali ha bisogno di una biblioteca intera, quindi semplificazioni, stiamo parlando sostanzialmente delle forme degli appalti e ne stiamo parlando in termini di annuncio, perché per ora il testo è ancora oggetto della trattativa nella maggioranza, trattativa anche piuttosto abrasiva in alcuni tratti, perché è stato tolto una parvenza di condono, che proprio condono ex novo non era, ma era semplicemente un'ulteriore semplificazione di una cosa già condonata che non era ancora arrivata a buon fine. Stiamo parlando di semplificazione delle procedure di appalto, per esempio quello dell'affidamento diretto per appalti fino a 150.000 euro, oggi era fino a 40.000 euro. Oppure, che ne so, l'affidamento diretto ai lavori fino a 5 milioni di euro attraverso, diciamo, la consultazione di 5 competitor, non attraverso una vera e propria gara, a deroghe, a atteggiamenti molto soft rispetto ai certificati antimafia. Chiaramente sono cose, è sul filo, molto borderline, molto, molto giuste in una fase di emergenza. Bisogna poi vedere nella fase applicativa cosa succederà e come funzioneranno davvero i controlli, perché è evidente che in un paese come il nostro, certo, non è che poi la deregulation totale è sempre dietro l'angolo che aspetta nell'ombra. Per quanto riguarda il cuneo fiscale invece c'è un effetto secondo me distorsivo degli annunci, nel senso non sono 100 euro come si sta sbandierando da qualche tempo, sono per una quota di redditi da 26 a 28 mila euro lordi. Effettivamente 100 euro lordi naturalmente, 100 euro, ma fino ai 26 mila euro c'erano già gli 80 euro di Renzi, e quindi sono 20 mila euro in più, poco altro, oltre i 28 mila euro poi diventano detrazioni che vanno sulla dichiarazione dei redditi. Detrazioni in decalage che arrivano fino a 40.000 euro dove diventano zero, quindi un meccanismo complicatissimo che fa a pugno questa idea di semplificazione del paese, e va bene, comunque è meglio di niente, per carità, però non tutto così con tutto oro come sembra quello lucidare, che luccica. Diciamo, Alberto, fra l'altro insiste ancora Conte sul il calo dell'IVA, dice potrebbe essere uno strumento di incentivo per la lotta al contante, cioè per chi paga con carte di credito, bancomat eccetera, un taglio dell'IVA. Però passiamo molto brevemente, nel minuto che ci resta, Alberto, alla questione del patto di stabilità, perché possiamo cominciare forse, almeno diciamo, non so se a preoccuparci o cosa, Alberto. Beh, oggi è tornato come grande tema della giornata, con il grande spettro dell'idea dei ritorni dei parametri di Maastricht, e torni appunto l'idea del patto di stabilità e il controllo della congruità dei conti e del quadro macroeconomico dei singoli paesi all'interno dell'Europa. Ne ha parlato la commissione tecnica, che ha detto la deroga stabilita fino a fine anno dovrà trovare un nuovo termine, alla fine del quale poi bisogna ritornare al regime di prima. Dombrovskis ha detto sì, in autunno ne parleremo, perché effettivamente bisogna cominciare a parlare di una possibilità di rientro all'interno di un quadro più regolato e sottoposto a parametri. Naturalmente questo ha fatto immediatamente sorgere l'angoscia all'Italia, perché chiaramente noi abbiamo un debito che sta andando intorno al 167% del PIL, oggi c'è il fabbisogno che è 95 miliardi, 62 miliardi in più del semestre dell'anno prima, quindi stiamo con i conti totalmente fuori, ovviamente dovuti all'impatto delle misure che sono state prese per il virus. Questo ci crea molti problemi. Gualtieri ha subito detto per tutto il 2021 non se ne parlerà di ritornare ai vecchi parametri di Maastricht, perché ovviamente non avrebbe senso. Gentiloni a sua volta ha detto che bisogna stare molto attenti a valutare queste cose senza creare fughe in avanti o problemi a singoli paesi in un momento così delicato. Insomma, però è chiaro che per adesso la narrativa dell'idea che siamo seduti su grandi barili pieni di miliardi prima o poi crollerà e torneremo tutti alla realtà del fatto che questi miliardi in un modo o nell'altro andranno restituiti. Chiaro, Alberto, leggo solo due di tanti messaggi. Questo ascoltatore che dice: io l'ho preso, sai che salgono a 110.000 i bonus vacanze erogati finora. Dice questo ascoltatore: io l'ho preso il bonus vacanze proprio da poco, all'inizio era tutto bloccato, pensavo che fosse un'altra figura barbina come quella dell'Inps mesi fa, poi ho capito che è il sistema che mi gestisce lo SPID, questa identità digitale, che aveva problemi di sovraccarico. Mentre un altro, Stefano, dice: Roberta, se entro venerdì l'Inps non mi mette sul conto i soldi della proroga Naspi che mi spetta, vado avanti, quindi per la disoccupazione, che vado avanti davanti alla sede di Mantova e mi do fuoco, non ne posso più. Non esageriamo, non estremizziamo, insomma, bisogna avere pazienza, sicuramente di intoppi ce ne sono stati, abbiamo ancora un po' di pazienza. Caro Alberto Rioli, ci dobbiamo salutare. Così, grazie, con un a voi abbraccio. E buona serata. Grazie, a presto. Ciao Alberto, ci fermiamo come sempre per una momentanea pausa e torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte con Roberto Giordano sempre con voi, un giorno non avrete modo di dire io questa non la sapevo a proposito di una notizia importante, perché ormai sapete da tanti anni è qui che trovate le notizie più importanti, in una sintesi iniziale e poi approfondite con gli ospiti per quanto riguarda quelle più in primo piano. Adesso, dopo aver parlato appunto delle misure economiche del governo e delle misure economiche che sta approntando l'Europa, con anche, abbiamo detto, il ritorno dello spettro del patto di stabilità eccetera, vorrei ritornare sul caso di Giulio Regeni, perché ricordate naturalmente Regeni, il giovane ricercatore friulano rapito e orrendamente torturato in Egitto e ucciso nel 2016. Come sapete, ne abbiamo parlato tante volte qui a Effetto Notte, sono ormai 4 anni e mezzo che la famiglia di Giulio e l'Italia attendono, sinora completamente invano, verità e giustizia dal governo egiziano. Oggi c'è stato un vertice di un'ora in videoconferenza tra la magistratura italiana e quella egiziana sull'inchiesta per l'omicidio di Regeni. La Procura di Roma in una nota scrive: in merito alla posizione della magistratura egiziana sulle richieste contenute in una rogatoria inviata nell'aprile del 2019, il procuratore generale egiziano ha assicurato che sulla base del principio di reciprocità le richieste avanzate dalla Procura di Roma sono allo studio per la formulazione delle relative risposte alla luce della legislazione egiziana vigente. C'è però da aggiungere che, fra l'altro, i magistrati egiziani hanno anche formulato delle istanze investigative sull'attività di Giulio Regeni in Egitto, cioè hanno detto che loro stanno investigando per capire esattamente, cioè, che colpi avesse, perché, cosa stava combinando dal loro punto di vista il povero Giulio Regeni in Egitto. Istanze che, secondo i genitori di Regeni, dice che oggi, dicono i genitori, dopo 4 anni e mezzo dalla sua uccisione, senza che nessuna indagine sugli assassini e sui loro mandanti sia stata seriamente svolta al Cairo, suonano queste istanze offensive e provocatorie. Ma ne voglio parlare con Erasmo Palazzotto, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Palazzotto, buonasera e grazie della disponibilità. Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Allora, i genitori di Giulio hanno anche sottolineato: chi sosteneva che la migliore strategia nei confronti degli egiziani per ottenere verità fosse quella della condiscendenza, chi pensava che fare affari, vendere armi e navi da guerra, stringere mani e guardare negli occhi gli interlocutori egiziani fosse funzionale a ottenere collaborazione giudiziaria, oggi sa di aver fallito. Insomma, Palazzotto, in sintesi, i genitori di Regeni dicono che questo vertice di oggi è stato un flop. Lei che ne pensa? Io penso che siamo davanti a un fallimento annunciato, non credo ci si potesse aspettare altro. D'altra parte, le autorità egiziane in questi 4 anni hanno continuamente operato tentativi di depistaggio e di occultamento della verità, non hanno mai dimostrato di voler cooperare seriamente per la ricerca della verità e per assicurare il responsabile della morte di Giulio Regeni alla giustizia. E inoltre hanno tutti gli elementi che ormai sono chiari di questa vicenda, che dimostrano che sono coinvolte nel rapimento e verosimilmente nella tortura e nell'uccisione di Giulio Regeni dei pezzi degli apparati di sicurezza egiziane. Almeno questo è quello che emerge nel lavoro straordinario che ha fatto la Procura di Roma, e quindi hanno ragione in qualche modo i familiari di Giulio Regeni a dire che questa è una provocazione, perché hanno avuto più di un anno per rispondere a una rogatoria che contiene tutti gli elementi che fanno arrivare la Procura di Roma a iscrivere nel registro degli indagati 5 agenti della National Security Agency egiziana. Non ci voleva, diciamo, ci vogliono un paio d'ore forse a leggere quella rogatoria. In un anno non hanno dato una risposta, invece si presentano in qualche modo alludendo all'idea che l'attività di Giulio Regeri in Egitto sia alla base poi della tragica già chissà di cosa colpevole, insomma, no? Quindi hanno ribaltato la frittata. Però Erasmo Palazzotto, diciamo, senza giri di parole, l'Egitto da 4 anni e mezzo ci sta prendendo impunemente per i fondelli, si può dire? Diciamo che ci hanno portato a spasso, nel senso che in questi 4 anni loro hanno tentato di depistare, diluire le indagini, far passare del tempo, dilazionarle in modo tale che si potesse in qualche modo dimenticare. Non hanno fatto i conti col fatto che la vicenda, la storia di Giulio Regeni è una storia che ha radici profonde nel nostro paese, perché un pezzo di questo paese si è stretto attorno alla famiglia e continua ancora oggi, dopo 4 anni, a rivendicare con forza il diritto di ottenere verità sulla morte di Giulio Regeni e di ottenere giustizia. E questo è anche perché Giulio Regeni è un cittadino italiano in cui ognuno di noi ha rivisto la propria storia. Chi nella mia generazione ha visto la sua biografia, chi ci ha visto il proprio figlio, chi ci ha visto il proprio nipote, e quindi sappiamo che poteva succedere a chiunque di noi, ed è per questo che noi rivendichiamo anche da parte del governo italiano in qualche modo che si assuma la responsabilità di proteggere i propri cittadini e in un caso drammatico come questo di ottenere verità e giustizia. Palazzotto, i genitori tra l'altro oggi hanno detto appunto che è stato un flop, che è fallimentare, che è offensivo quello che hanno la frittata che hanno rigirato i magistrati egiziani, e chiedono al governo italiano di richiamare l'ambasciatore italiano dall'Egitto. E vedevo poco fa un Twitter di Matteo Orfini del Partito Democratico che dice: l'incontro tra le procure sul caso Regeni è andato male, l'Egitto non ha alcuna intenzione di fare luce su questa drammatica vicenda, si ritiri l'ambasciatore e si blocchino subito le forniture militari. C'era stata proprio in questi giorni la polemica su due navi militari che l'Italia stava vendendo all'Egitto. Lei fa parte del governo in quanto esponente di Liberi Uguali, che cosa ne pensa del ritiro dell'ambasciatore e di bloccare forniture di armi all'Egitto? Io penso che il governo non possa far finta che non sia successo niente e che davanti a una vicenda come questa debba necessariamente prendere un'iniziativa molto forte nei confronti dell'Egitto, e possa comprendere anche il ritiro dell'ambasciatore, il richiamo dell'ambasciatore per consultazioni ed eventualmente altre iniziative che servono ad esercitare pressione. Ma credo che la prima cosa da fare sia anche quella di porre in sede europea una questione che riguarda l'Egitto. Giulio Regeni era un cittadino europeo e non penso che questa possa essere una vicenda che riguardi solo l'Italia e di cui si occupa l'Italia, mentre l'interruzione delle nostre relazioni diplomatiche non incide sulle relazioni diplomatiche che hanno altri paesi come la Francia o anche l'Unione Europea in quanto tale. Credo che la solidarietà europea su questa vicenda sia necessaria, quindi È un impegno che il nostro governo si può prendere per chiudere, Palazzotto, questo di portarla in seno all'Unione Europea questa vicenda una volta per tutte? Io penso che il governo lo debba prendere questo impegno. Non può più aspettare, far finta più. che non sia successo niente. Vedevo in questo momento che la Farnesina, Ministero degli Esteri, poco fa ha scritto in una nota, dalle fonti insomma emerge, che dice: esigiamo un cambio di passo e soprattutto esigiamo rispetto per la famiglia Regeni. Speriamo, perché qui, tranne che di speranza, insomma, per il momento non si riesce ad andare avanti con altro su questa vicenda. Grazie intanto Erasmo Palazzotto, la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie. A voi. Cosa cerchi per il tuo business? Soluzioni performanti, il massimo dell'efficienza e poi dinamismo, autonomia, sostenibilità. Perché non pretendere tutto ciò anche dalla tua auto? Con la nuova BMW Serie 3 Touring hai le migliori performance e la più emozionante dinamica di guida per far viaggiare il tuo business ancora più velocemente. Scopri le nostre soluzioni flessibili su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW. Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Sempre con voi Roberta Giordano, da il caso Regeni passiamo agli Stati Uniti, ci colleghiamo con il nostro Marco Valsania. Caro Marco, ciao. Buonasera. Per parlare della popolarità del presidente americano Trump, che sembra ormai a picco, dagli ultimi sondaggi risulterebbe che il 59% degli americani disapprova il suo operato, probabilmente si prospetta il 4 luglio, sapete, l'Independence Day, la festa così importante per gli Stati Uniti, il più nero della sua storia per quanto riguarda Trump, anche perché, diciamo, Marco, un po' tanto se l'è cercata tra la gestione della pandemia da coronavirus ormai fuori controllo, si parla di un nuovo record nazionale di 48.000 casi in un giorno, e poi lo smacco del bando dell'Unione Europea che ha deciso ieri di aprire le frontiere a tanti stati ma non agli Stati Uniti proprio per questo record di coronavirus, e poi anche per la gestione muscolare da parte di Trump, ricordiamo delle proteste contro l'ingiustizia razziale dopo la morte di George Floyd. Sì, sicuramente ha dato prova di tutti i problemi, di tutti i limiti dello suo stile di leadership, uno stile appunto di leadership aggressivo e, diciamo, caratterizzato dalla mobilitazione della propria base ma non dalla capacità di rivolgersi al paese nel suo insieme. E come ricordavi, questo si è visto nella gestione della pandemia, quando ha rifiutato, diciamo, a lungo anche le raccomandazioni degli esperti, diciamo che e gli appelli, diciamo, a precauzioni sanitarie che in realtà proteggevano soprattutto fasce, in particolare tutti, ma anche soprattutto fasce, diciamo, più vulnerabili della popolazione, poi sulla gestione della crisi economica che ne è conseguita, sulla gestione delle tensioni razziali. Questo ha eroso, diciamo, la sua popolarità, diciamo, un po' ad ampio raggio, tant'è vero, e anche in segmenti, in fasce di elettorato che tradizionalmente lo avevano avvantaggiato. Per esempio gli elettori anziani, che sono anche tra i più vulnerabili alla pandemia, oggi, diciamo, nell'elettorato sopra i 60 e 65 anni, oggi Trump è in svantaggio su Biden. Erosione ha riscontrato anche nell'insieme dell'elettorato bianco, chiaramente in modo molto più significativo nell'elettorato femminile, ma anche qui in maniera abbastanza generalizzata. Chiaramente sempre in maggior difficoltà è nell'elettorato tra le minoranze etniche e nell'elettorato giovane. Tra l'altro, dove, Marco, chiaramente i suoi numeri sono neri, pessimi. Paradossale, leggevo tra l'altro che un gruppo di ex dirigenti dell'amministrazione e della campagna di George W. Bush, quindi presidente conservatore, repubblicano, eccetera, stanno lanciando una raccolta fondi per la campagna di Biden, il candidato democratico. Sì, diciamo, c'è stato un progressivo defilarsi, diciamo che fenomeni di ribellione di una parte, diciamo, del movimento conservatore più, fra virgolette, moderato e diciamo, si autodefinisce più illuminato, diciamo, e quindi di anti-Trump, c'erano già stati in passato, ma hanno ritrovato voce e si sono anche ampliati in quest'ultima fase, quindi una serie soprattutto di ex esponenti legati a precedenti amministrazioni repubblicane, di George W. Bush e anche del padre, e in qualche caso anche personaggi che avevano lavorato comunque a margine del Partito Repubblicano, nel Partito Repubblicano, anche, diciamo, nella fase iniziale di Trump, che a questo punto sono defilati, hanno in qualche caso, come ricordavi, hanno anche lanciato campagne di sostegno aperto per il suo rivale, per Biden, che viene considerato comunque diciamo un candidato diciamo di fondo moderato e comunque ragionevole, quindi che è in grado di fare appello, anche di trovare consensi anche in un elettorato, una diciamo fascia di elettorato conservatore repubblicano più moderata e che si oppone, diciamo così, alle spinte più estreme, diciamo, di Trump, che hanno accelerato ancora di più in quest'ultima fase di crisi. Tra l'altro, per chiudere, Marco, vedo che le autorità sanitarie hanno consigliato a tutti gli americani per il 4 luglio di stare a casa, niente festa, niente assembramenti, niente celebrazioni. Assolutamente, la California e New York hanno anche frenato sulla riapertura dei ristoranti. New York doveva riaprire i ristoranti, diciamo in parte, diciamo le sale interne dei ristoranti, ha deciso di non aprirle, e la California le ha richiuse nel 70% dello stato, e quindi c'è un progressivo passo indietro, frenata brusca, proprio per il riaccendersi della pandemia, che è sempre più forte. Grazie Marco Valsani da New York, un abbraccio, ciao Marco. Devo correre subito da Dario Ricci invece per aggiornamento delle partite ancora in corso di Serie A maschile. Dario, eccoci qua. Sì, eccoci qua, senza fiatone, perché partite del 21:45 iniziate appunto da circa 10 minuti su tutti e quattro i campi, sono tutte e quattro sullo 0-0, Fiorentina-Sassuolo, Lecce-Sampdoria, Spal-Milan e Verona-Parma. A questa penuria di reti finora non ha certo contribuito l'Inter, che invece al Brescia a San Siro ne ha fatti ben 6, è un roboante tennistico 6-0 per i nerazzurri contro le rondinelle ormai condannate alla retrocessione. Nel primo tempo le reti di Young, Sanchez e D'Ambrosio, nella ripresa Gagliardini, che come ricordavamo autore di quel clamoroso errore contro il Sassuolo, si è almeno parzialmente riscattato, poi nel finale Eriksen e Candreva, 1-1 invece nell'altra gara delle 19:30 tra Bologna e Cagliari, e qui i marcatori sono stati Barrow per il Bologna alla fine del primo tempo e a inizio ripresa Simeone per il Cagliari. Roberto. Grazie Dario Ricci, buon proseguimento con le partite. Ciao Dario. Ci aggiorniamo, come sapete, alle 22:00.